lontano da te ormai. E lingua diventa tra i denti, pensieri distanti da te ormai. Nuovi sedanti gustarsi da gente tranquillamente così. Cosa?